vita destra e a dolce onore di consorte disposa cedi lo sdegno. Io cedo chi se ben può crudere pur m'innamora e ad un tallirà son pur sposa ancor io sposa il regge rendo amici e credo pur a voi giorni più felici or salzi allora.